Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ieri tutti hanno parlato di papà perché era la festa del papà. Ieri mi sono ben guardato dal soltanto accennare il fatto che esistono le padri, perché odio la festa del papà. La festa del papà, secondo me, è il funerale della dignità paterna. Serve a commemorare quella che è una reliquia del passato. Questo l'ho scritto io. Sta al padre come il calendimaggio di Assisi sta al dolce del stil nuovo. È una farsa organizzata dalla Proloco dello strapaese famiglia per confezionare memoria fittizia di un tempo passato per sempre. Il padre non esiste più, non ci prendiamo in giro. Non esiste più una necessità che esistano i padri nella nostra società. Quindi perché fa la festa? Questa sorta di bimbo minchiaggine residuo di una figura che forse una volta avrà avuto un senso. Quindi ieri non ho voluto parlare di padri, quindi di padri invece ne voglio parlare oggi. Oggi vorrei ascoltare la voce dei padri, ma di quelli veri, di quelli che sanno che essere padri è qualcosa che bisogna reinventarsi ogni giorno, perché non esistono più modelli. I modelli che noi avevamo non valgono più, non valgono in assoluto per nessuno, nemmeno per i papà di bimbo minchia, ma meno ancora valgono quando tu devi gestire dei figli un po' particolari. Non sono figli come tutti gli altri, sono figli di cui tu sei padre, ma lo sarai sempre all'infinito, finché tu avrai respiro. E la tua angoscia è che verrà un giorno in cui tuo figlio ti sopravviverà. E chi farà il tuo ruolo per lui? Guardate che qualsiasi padre, non è che voglio sminuire gli altri padri, quelli che non hanno dei figli particolari, dei figli speciali, sanno che a un certo punto, se Dio vuole, se le circostanze lo permettono, se uno ha una buona dose di fortuna, i figli prendono la loro strada. La prendono in maniera contrastata, la prendono in maniera violenta, la prendono in maniera normale, tenera, indolore, a volte anche affettuosa. Figuriamoci, esistono tutte le possibili fattispecie nel rapporto fra un padre e un figlio, per cui il figlio si emancipi. Ma il figlio deve prendere la sua strada, prende la sua strada. Beh, esistono padri, sono i padri di cui voglio parlare oggi, che in realtà non hanno modelli, perché loro non sono stati abituati a essere padri di un figlio che avrà sempre comunque bisogno di loro. E che l'emancipazione e lo staccarsi dal proprio figlio significa un'operazione che uno deve inventarsi, è una sorta di ingegneria gestionale del proprio ruolo paterno, che ognuno si adatta sulla sua persona. Vi leggo una cosa che invece ha scritto un altro, non la cialtronata che ho scritto io. La paternità non è un fatto di sangue, per come la vedo io. La paternità è qualcos'altro. È un susseguirsi di domande e voglia d'esserci. Non esiste un manuale di istruzioni sulla paternità buono per tutte le occasioni. Esiste soltanto una risma di fogli bianchi che i tuoi figli ti aiutano a riempire. Fogli pieni di inevitabili errori, poesie improvvisate, arrabbiature ricorrenti, dolci sorprese. Fogli dove un giorno dopo giorno annoti i tuoi goffi tentativi di regalare loro il dono più prezioso, quello di essere liberi, di non rinunciare mai a essere se stessi. Ecco, questo è quello che vale o dovrebbe valere per tutti i padri. Ma quando in realtà uno ha un figlio del genere che dico io, e penso ce ne sono tanti di padri che ci ascoltano che gestiscono un tipo di problema del genere, possono chiamarmi all'800240024, oppure padri che hanno comunque il senso di responsabilità non soltanto dato da quella sorta di trascurabile incidente genetico per cui hanno generato un altro essere umano, no? Sentono su di loro il peso. Beh, facciamo finta che oggi è la nostra festa, facciamo finta che in questi ormai 16 minuti scarsi possiamo parlare della dignità, dell'orgoglio e della gioia di essere padri. Ecco, quando invece le circostanze sono un po' diverse dalla norma, scatta questo tipo di pensiero che dice la persona che sto citando, e fra un po' vi presento. Vi lascio un attimo di sorpresa. E quando uno dei tuoi figli è disabile, non è soltanto l'idea di paternità che hai immaginato da figlio a risultare del tutto inadeguata. Immediatamente capisci che nella tua vita con lui ci saranno nuove strade da percorrere, diverse da quelle che avevi pensato di seguire, e luoghi che non potrai mai esplorare, perché se diventare padre è il modo migliore per iniziare una nuova avventura, l'incontro con la disabilità ti chiede di accettare il fatto che per esserci potrebbe non bastare a tuo figlio. Chi ha un figlio a cui sicuramente non basta che il padre ci sia soltanto, questa mattina può chiamare 800240024. Il brano che ho letto è tratto dal nuovo libro di Massimiliano Verga, Un gettone di libertà. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Con Massimiliano Verga ci siamo sentiti noi un paio di anni fa perché aveva scritto un libro che è diventato una sorta di manuale della paternità imprevista, chiamavano così, Ziguli, la vita dolce amara con un figlio disabile. È la storia di Massimiliano con suo figlio che ha dei problemi. Elenchiamo, visto che sono passati gli anni, quali sono i problemi attuali di tuo figlio, così capiamo il contesto e poi cerchiamo di generalizzare per quanto possibile. Sì, ma allora il mio figlio Moreno oggi ha 10 anni, è un bambino che non vede, non parla, epilettico, e diciamo che capisce forse l'1% di quello che può capire un bambino della sua età, quindi ha un deficit, come direbbero i manuali, un deficit cognitivo molto, molto severo, molto importante. Tu hai anche altri figli però? Io sono padre di 3 bambini, sì, uno a 12 anni e uno a 7. Ecco, primo problema che ti pongo, che ben conosco e ben conosceranno. Come si fa a scegliere la percentuale di paternità da distribuire tra dei figli che comunque hanno gambe per camminare, occhi per vedere, bocca per parlare, mani per esprimersi, e un figlio che in realtà tutto questo gli manca e deve pensarci il padre? Sai, i figli hanno sempre, come dire, priorità uno, cioè loro hanno quel bottone e quando ti fanno una domanda pretendono di avere la priorità rispetto agli altri. E quindi tu, come dire, devi essere una sorta di padre multitasking, non so come definire, cioè, ti trovi di fatto nell'impossibilità di rispondere a tutti e tre, e questo vale a prescindere dalla disabilità di uno dei tre. Direi che quando uno dei tre è moreno, come nel mio caso specifico, per forza di cose devi gestire il tuo tempo in nome della rinuncia dell'uno o dell'altro. Quindi capisci, è vero che c'è un algoritmo che non ti trasmette nessun altro genitore, non è che tuo padre o il padre di qualsiasi altra persona che ti trasmette comunque alcuni elementi che tu metabolizzi, cosa vuol dire essere padre, non si ricorda di suo padre, recupera il rapporto, ha nostalgia, ma non c'entra più niente ormai. Ma no, perché dicevi bene all'inizio, cioè uno si deve inventare minuto dopo minuto la sua presenza con il figlio o con i figli, quindi sei lì e ci provi, ma non hai un riferimento, non hai un manuale, non hai delle istruzioni, non hai avuto dei modelli, cioè anche avendoli avuti, quei modelli non servono più. Cioè, senti, cos'è il gettone di libertà? Tu nel titolo del tuo libro parli di gettone di libertà, è bello perché è quello che tutti vorremmo conquistare. Tu sai, e sanno altri padri, quanto è difficile riconquistare la propria libertà. Quando si hanno figli particolari uno si diventa come quando si era bambini, devono chiedere il permesso, posso uscire papà e mamma? Oggi devi chiederlo a tuo figlio. Ma sai, è una metafora che io ho usato per provare a raccontare, ma quello che come genitore sto cercando di fare con i miei figli, cioè quello di provare a mettergli nelle tasche, nelle mani qualcosa per attraversare il mondo per conto loro. Allo stesso tempo però non nascondiamoci il fatto, io questo gettone di libertà a Moreno non lo posso dare. È chiaro. Moreno non sarà mai una persona, allora nessuno è una persona libera, però diciamo che tutti possiamo provare a ritagliarci dei piccoli pezzetti di libertà, ci possiamo provare chi più chi meno con gli strumenti che ha a disposizione può provarci. Ma certo, anche un figlio tagliagole, disgraziato, delinquente, alla fine ti fa soffrire, ma fa delle sue scelte libere, ha una sua autonomia. Fa delle scelte libere. Moreno deve avere sempre qualcuno a 30 centimetri di distanza. Questa non è libertà. Questo però, posso dire, secondo me è utile anche per chi ci ascolta, per far capire che anche in situazioni meno drastiche il mestiere di padre è una riprogettazione continua, non esiste più il modello. Sento qualche ascoltatore. 800240024, Ippolito. Sì, pronto, buongiorno. Ti ascolto. Sì, niente, io chiamavo perché io sono un giovane padre di 36 anni. Ho un bambino di 5 anni. Io nella mia vita appunto non ho mai avuto un padre perché è mancato tantissimi anni fa, praticamente io ero appena nato. Quindi io non ho un modello di padre, non sono cresciuto con un padre a fianco. Quindi te lo stai inventando? Esatto, io me lo sto inventando. E a volte appunto mi trovo in difficoltà perché mi sento più, diciamo, rappresentare un amico per mio figlio, no? Qualcosa che è sbagliatissima. Lo so. È sbagliatissima. Ma come è piccolo tuo figlio? Ti accorgi quanto è sbagliata quando cresci? Esatto, io spero appunto di riuscire a strazzare, no? Cioè diventare veramente un buon esempio, indirizzarlo, non tanto di fargli da guida, ma cercare di stimolarlo per poi crescere e sviluppare amare le sue esperienze. Comunque mi confermo il poeta che oggi i padri coscienti sono quelli che hanno davanti una tabula rasa, un foglio bianco, e se lo reinventano, se ne fregano dei modelli. Paolo. Ciao, buongiorno a tutti quanti. Io sono Paolo, telefono da Roma, ho 55 anni, i miei figli ormai sono grandi, una ne ha 31 e una ne ha 24. Beh, li hai avuti presto, sei fortunato. Sì, insomma, una via di mezzo. Contento perché adesso sono giovani e sono grandi insieme a me, e da un'altra parte perché mi sono privato di molte cose. Chi ti ha insegnato? Non mi ha insegnato nessuno, anche perché mio papà non l'ho avuto da quando avevo 10 anni, quindi gli insegnamenti li ho avuti da mia mamma, da mia sorella e dalle persone che mi vivevano vicino, dalle buone presenze. E i miei figli, pur avendo un grande problema, perché hanno avuto un'ipoacusia, mi sono separato, quello piccolo ne aveva 2 e il grande 9, io sono stato sempre dietro. Però non è una questione di insegnamento, perché ci sono dei bravi papà come ci sono delle brave mamme. Io credo che nessuno possa insegnare come possa essere un bravo papà o una brava mamma. Io penso che venga spontaneo nel momento in cui tu vuoi bene a tuo figlio e dedichi la tua vita nei confronti di tuo figlio, perché tuo figlio sì, può essere il più grande primario, certo, il professorone, sì, sì. O può essere magari quello che purtroppo si perde per la strada con le cattive amicizie, ma penso che il genitore è sempre un genitore. Dedicare la vita è un parolone, io non vorrei dedicare la vita a nessun altro che a me stesso, dico la sincera verità, ma lo dico con candore, mica me ne vergogno. Se avessi potuto, avrei dedicato parte della vita ai miei figli equamente distribuite, parte della vita alla legittima moglie, ma il resto della vita non lo sarei distribuito in parti magari impietosamente ingiuste e ingenerose verso il resto del mondo. Ahimè, ci siamo, questo è il ballo e ci dobbiamo ballare. Massimiliano Verga, solo una battuta prima delle informazioni del traffico, visto che sei sociologo, insegni sociologia del diritto alla Bicocca di Milano. Ti rendi conto però, stiamo dicendo delle eresie che pochi hanno scritto, il mestiere di padre non si eredita ma si inventa, siamo nel momento in cui i padri o te lo inventi ad essere padre o se no sarai un padre fallito. Ma io credo che... Ma forse non diciamo neanche dal mio punto di vista, niente di particolarmente originale, cioè è questo, io credo, se non altro perché comunque ogni figlio è una persona a sé, quindi non è che tu puoi avere comunque un modello buono per tutte le occasioni e lo applichi, allora tu sei padre, quello si chiama figlio, queste sono le regole e tu nella quotidianità le... No, cioè ci sono delle persone... Beh, diciamo che nel mondo moderno, per un secolo e mezzo così, si è ragionato così, eh? Ah, certo, questo è vero, però credo che adesso, insomma, mi auguro che si cominci a capire che non è così, cioè che... Ma anche perché poi non dobbiamo guardarla soltanto dal punto di vista, come dire... negativo, cioè reinventarsi quotidianamente l'ho anche scritto, cioè è anche un momento che ti regala delle sorprese. Ah beh, sai, qualunque attività umana, se non la fai in maniera passiva, la fai in maniera cosciente, alla fine sei più motivato a farla. Ci fermiamo un istante, traffico, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Oggi 20 marzo, giornata successiva alla terribile squallida festa del papà, alcuni padri di figli un po' tanto difficili da gestire spiegano agli altri padri che il mestiere di padre non si eredita, non si legge sui manuali, ma se vuoi proprio essere padre devi inventartelo giorno per giorno. Sto ragionando assieme al collega di figlio strano Massimiliano Verga, che è un sociologo della Bicocca di Milano, ha scritto il suo secondo libro sul figlio moreno gravemente disabile, Un gettone di libertà, edizione Mondadori. Vi leggo un altro pezzettino perché è importante, eh? Immaginiamo di infilare la mano in una pentola d'acqua bollente, non c'è bisogno di ricordare che non è affatto piacevole. Ecco, adesso poniamo anche per un motivo inspiegabile, non riusciamo a togliere la mano dalla pentola, la mano resta nell'acqua bollente. Quando Moreno urla, è questa la sensazione che ti trasmette, è il dolore del fuoco sulla pelle, la tua, e tu sei lì di fronte a lui senza poter far nulla. mi dispiace proprio tanto deludere chi crede che la sofferenza sia una condizione umana auspicabile, ma chissà per quale motivo è sempre dal dolore degli altri che si parla e di una vita che non è la nostra. Questo per chi dice: ah, beato te, se il Signore ti ha dato questa opportunità è perché sa che tu puoi gestirla. Ma col piffero. Italo, buongiorno. Buongiorno. Ascolto. Ecco, volevo portare un po' la mia testimonianza. Innanzitutto dirle che sono d'accordissimo sul fatto che il mestiere di padre bisogna inventarselo giorno per giorno, a maggior ragione se il figlio ha qualche difficoltà. Ma anche con fantasia, con gioia, inventarsi quegli spiragli che ci fanno star contenti a noi, perché mica bisogna. Non siamo votati alla sofferenza. Volevo proprio dirle questo. Io ho un figlio down, adesso ha 25 anni, perciò già grandicello, e come si sa, quando nasce un figlio con problemi è come un lutto, lo so, però si elabora, davanti è come essere davanti a un bambino morto. Beh. Poi però la vita pian piano morto è peggio, poi non lo vede più, questo almeno continua a vederlo, no? Sì, anche sì, sotto certi punti di vista l'angoscia continua, però una volta superato questo blocco insieme al bambino, con la famiglia, con la mamma, con i fratelli se ci sono, ci si può davvero reinventare e fare una vita onesta, bella, felice, vorrei dire, quasi, nel senso che con la crescita del ragazzo e inventando quello che tutti... Diciamo, Vito, dirò una frase un po' forte che non tutti gradiranno, ma un figlio particolare e speciale che ti segue per un bel pezzo della tua vita è la maniera per ricordarti di averti le palle nell'età in cui normalmente la gente se lo dimentica. Evaristo. Sì, salve. È d'accordo? Sì, bisogna reinventarsi la vita nel momento in cui ci si rende conto di avere a che fare con una persona che ha delle necessità diverse da quelle degli altri figli. Però è anche vero che bisogna cercare di mantenere la famiglia unita e fare in modo di dare agli altri figli tutto quello di cui hanno bisogno. Io ho tre figlie, una di 18 anni, la Lorenza che ha una sindrome di Angelman, quindi è una sindrome abbastanza importante, e una terza che abbiamo adottato. Ognuno ha delle specificità, secondo me bisogna cercare in ogni caso di seguire queste specificità e dare il massimo che si può dare. Ovviamente per i padri è difficilissimo. È un bel lavoretto. Massimiliano Verga, ritorniamo al punto del gettone di libertà. Mi sembra che il punto nodale ormai non sia più, visto che sono tante testimonianze di padri con figli particolari. È l'equa distribuzione del proprio patrimonio vitale nelle altre persone che si hanno intorno, mogli, amanti, figli, parenti, nipoti, colleghi, via dicendo, perché abbiamo vicino una sorta di vampiro che ci prende la maggior parte della nostra vitalità. È inutile negarlo, noi abbiamo un succhiasangue che ogni giorno ci dà una bella succhiata e ci lascia un po' stramazzati. Allora, le giornate sono di 24 ore anche per me, non è che io, avendo un figlio con le difficoltà che ho descritto prima, le giornate sono più lunghe, e quindi come dire, davvero dividere il proprio tempo tra le sue esigenze e quelle altrettanto legittime dei tuoi affetti che ti stanno vicino, sì, è inutile negarlo, richiede un certo sforzo, una certa fatica. Insomma, ci sono dei giorni in cui sinceramente hai veramente sonno, proprio parliamo di esigenze primarie, cioè hai sonno. Poi ci sono anche delle giornate invece in cui tutto sembra scivolare giù in modo quasi perfetto e quasi non ti accorgi, no? Senti Massimiliano, quanto riassapori gli istanti, i frammenti, le fessure di libertà che ti riesci a conquistare in questo casino di vita? Guarda, dici bene, le riassapori, è proprio un tornare a quelle sensazioni di, ma lo dico con tutto l'affetto che per mio figlio, insomma, grazie. Sentivo prima che nascesse Moreno con le esigenze che ha, è proprio un riassaporare, un riscoprire, può sembrare un po' retorico, però certamente a quei ritagli do un valore, un significato, un'emozione. Sai, è difficile spiegare ad altre persone cosa significa una persona che diciamo, in età in cui dovrebbe aver conquistato la sua autonomia, che la sera deve dire a un amico, un'amica, a un collega: no, guarda, non posso uscire perché c'ho mio figlio. La gente una volta, due volte, tre volte dice: vabbè, poveretto. La quarta volta non ti cerca manco più. Alla fine dice: vabbè, poveraccio, non ti chiama più nessuno, resti solo. È questo il fatto. Ma io mi trovo anche a dire: stasera non esco perché vado a dormire, perché sono da solo, quindi magari ho anche quel mio momento chiamiamolo di libertà, ma ho sonno e lo voglio dedicare a sonno. E non ti spari la botta di vita mensile che potresti spararti. Sentiamo Davide, buongiorno. Mi sente? Sì, certo. Buongiorno, io sono Davide, telefono da Parma. Ho un brutto ritorno al telefono. Vabbè, dai, fa finta di niente. Ok, ho 56 anni, ho tre figli, due sanissimi, il più piccolo ha 15 anni, è stato operato di scoliosi in un ospedale qui della mia regione. E l'operazione è andata malissimo ed è sempre tetraplegico su una sedia a rotelle. E come ti dividi fra tre figli? Come ti inventi ogni giorno? I due sono grandi, uno ha 39 anni, l'altro ne ha 24, sono loro che danno una mano a noi. Però mi sono dovuto veramente reinventare il mestiere di padre, perché un figlio che giocava nel Parma Calcio o che faceva motocross e con tutte le foto, con tutti i video, e adesso si trova su una carrozzina, prova a spiegarmi tu il perché. Tra l'altro vengo anche spesso accusato di averlo fatto operare. Vabbè, non ti prendere adesso il carico delle chiacchiere che dicono gli altri, già mi sembra che hai già abbastanza problemi. Grazie Massimiliano Verga, ricordo un gettone libertà, avete visto? Sembra che abbiamo toccato un problema molto personale, molto esclusivo, ma quanto diffuso non ve ne rendete manco conto. A domani.